A Rock FM sono le 7:30 minuti primi. Problemi? If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Beh, se avete problemi nel risveglio mattutino, avete azzeccato la frequenza esatta. C'è l'Ariele al microfono, Mister Spadino in regia, Roberto Fricantoni insieme ad Isaac Rizzi, la nostra redazione. Ne abbiamo ancora di roba da combinare questa mattina. Beh, cartoline, abbiamo nuove iniziative da lanciare. Siamo sempre pieni di stupidate, ragazzi. Non so se l'avevate intuito, ma qui piove sul bagnato a proposito di stupidate. 335-100-7777, il numero di SMS, ariel@radiorockfm.com, la nostra casella di posta elettronica. Queste le coordinate. Lampione crepuscolare spento, rocker di riferimento salutato, patente honoris causa data. Tra l'altro c'è uno scoop sulle patenti quest'oggi, ragazzi. Ah, c'ho una mail che parla chiaro. C'è qualcuno là fuori che sta già iniziando a smazzare patenti false. Questa cosa va approfondita e lo faremo nel corso della puntata di oggi. Non perdetevela. I'm colpo di scena. Come direbbe Mike Buongiorno, lo dica meglio. Colpo di scena. Allora amici, amici radioascoltatori e radioascoltatrici, aprite bene le orecchie. Aprite bene le orecchie. L'impagabile redazione di Pane, Burro e Rock and Roll ci ha sottoposto una notizia bomba. Ci ha sconvolti. Legata a triplo nodo con questo martedì 3 di ottobre. Perché nel 1993 avvenne una scoperta che ha dell'incredibile. I nostri segugi della redazione hanno scoperto che negli archivi del Festival di Castrocaro, ricordate il Festival di Castrocaro Terme? Sì. Un certo Umberto Bossi, proprio lui, leader della Lega, oggi, cielo duro, esatto, cielo durista, oggi il grande leader della Lega, sì, Nord, nel senso di conosciuto in tutta, sì, Italia, nel 1961, ascoltate, sì, bene, badate bene, si presentò alle selezioni del festival, sì, venendo comunque eliminato, tra l'altro, con lo pseudonimo di Donato. E non potevamo non soffermarci su questa immagine, soffermandoci a immaginare la canzone interpretata da Donato. Che non c'è Umberto, pervenuta. Dai, ma Donato. Ti abbiamo tanato, Umberto. Neanche Frick Antoni in tutta la sua carriera si è mai fatto chiamare Donato. No, infatti, no. Dai, potevi sforzarti un po' di più, caro Umberto. Immagini che voce, poi chissà cosa. Ma che cosa da Donato non c'è da aspettarsi molto, perché lei sa che ha cavallo. Ecco, lo dica. Colpo di scena, sì, eccolo, lo faccio. A cavallo Donato, non si guarda in bocca. Non mi veniva la rima, volevo spiazzarla ma non mi è venuta. Dovrebbe fare a cavallo Donato, non si guarda in Bossi. Non si guarda in Bossa, licenza poetica. Esatto, buona. Ci arriverà una scarpata. Ciao Umberto. Ciao, ciao grandissimo Boss, Bossi. Umberto, ti abbiamo scoperto. Foreign, niente di necrofilo spero. Brownsville Station, hai capito Spadino? Barefooting. Va bene, scusate, io sono ancora, mi sto riprendendo ancora dall'influenza, quindi è così che affronto le puntate di Pane, Burro e Rock and Roll. Sempre l'Ariele, buona giornata. Qui continua il via vai di Jogger. Oh, questi corrono prima mattina col freddo che fa. Bravi, complimenti, sono quelli che intravedo dalla finestra che si tuffa qui di fronte agli studi di Rock FM. Tanti messaggi che stanno arrivando, ma io devo tornare velocemente. Facciamo prima un giro di strombazzate, ti va? No, ti va, dicevo, ti sia, a te che stai ascoltando, ti va? Sì, ok. La prima la faccio a Darien, messaggio fenomenale. Oggi ho la prima interrogazione dell'anno su tutto Kant. Oh, siamo lì vicino a te, ma proprio siamo in squadra con te. Ah. Le altre strombazzate che devo fare. Qui c'è un amico che quest'oggi gli tocca andare e tornare indietro da Trento fino a Trento in giornata. Siamo vicini anche a te. E l'ultima veloce a Alauda, perdonami. Io ho bisogno di una strombettata. Mia sorella a Gigi D'Alessio, come sveglia. Oh ragazzi, io non so cosa dirvi. Queste cose dovete un po' gestirvele voi. Mentre sono cose che non vorrei fare, ma io devo leggere la mail di Carlo, il nostro tabaccaio di riferimento, colui con il quale diamo i numeri del lotto il martedì, ricordando sempre che sono rock, quindi non escono. Però non so come mai poi il mercoledì, confermando che non sono usciti, sia nei toni della sua mail, sia, lo devo confessare, anche in un mio atteggiamento, un po' brucia. Perché la possibilità di diventare ricchi il mercoledì mattina un po' ci affascina sempre qui in redazione. Comunque tranquilli, ieri abbiamo dato 4 numeri, Carlo ci fa sapere che peggio di così non si poteva fare, non è uscito nemmeno uno sui 50 estratti in tutte le ruote. Questo per farvi capire quanto sono rock i nostri numeri. Non è uscito uno su 4 su 50 numeri estratti. In compenso però mi fa sapere, abbiamo alcuni ascoltatori che tutte le mattine ci sentono e passano a salutarlo o a comprarsi le sigarette. Meritano un salutone, boy e girl che comprano le Chesterfield e che si sono anche giocati i numeri che ho esposto alla bene meglio. Bravo Carlo che inizia a odorare anche il business di questo gemellaggio con pane, burro e rock and roll. Carlo, ci si risente poi giovedì, mi raccomando, cerchiamo di preparare altri numeri che non usciranno mai. Chiudo velocemente con l'amica che commenta: ho saputo di Sottomarino Giallo. Ah sì? Cos'è? Non so di cosa stai parlando. Mentre a proposito delle canzoni dei Beatles cantate in italiano, di quello stai parlando, saluto anche Giwaki che scriveva: ore 7:22, aeroporto di Linate, Ariele Frick e tutto va bene. Ah, post scriptum, viva Giuditta. Sì. Poi ve le andate a cercare, ragazzi, eh. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. But she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. Thank you. You got to hide your love away. Erano i Beatles nella versione originale. Se qualcuno avesse, no, magari qualcuno ha pensato, no, quelli sono Frick e Ariel che cantano la chitarra. No, erano i Beatles. Per i puristi della formazione di Liverpool, vi tranquillizzo, nella puntata di oggi non trasmetteremo canzoni dei Beatles in italiano. Per invece coloro che sono affezionati a questa nuova rubrica che si chiama E se i Beatles fossero nati a Roncobilaccio, vi faccio sapere che la prossima versione che andremo ad approfondire nelle prossime puntate di Pane, Burro e Rock'n'Roll sarà Let It Be, che diventa Lascia che sia. Vi lascio con questa immagine, iniziate a immaginarvela voi, Lascia che sia, e poi la sentiremo nel corso delle prossime puntate. Mannaggia, via SMS, quest'oggi vi sento belli attivi, ci sono parecchi problemi da affrontare, abbiamo ancora almanacchi da fare, compleanni del giorno, anche quest'oggi una nuova rubrica, insomma, tanta la carne da gettare al fuoco di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Occhio che ci si brucia quest'oggi, Intanto speciale Pane, Burro e Rock'n'Roll ed è subito amore. Eccoli, dolci come solo i veri metallari sanno esserlo. Whitesnake, 7:47 minuti primi. Is this love? Ah, c'è un messaggio sull'amore, ragazzi, che lo leggo, tranquillo, amico di Genova, tra un po' lancio il tuo appello. L'amico di Genova c'ha il cuoricino che fa cric croc. You go alone. It sounds like these can make it on their own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. If I just spend my time. My side. quotidianamente dedichiamo un piccolo spazio all'interno delle nostre due ore a ringraziare tutti coloro che hanno spedito una cartolina postale. Il concorso era spediteci la cartolina più rock di tutte. Quest'oggi, Freak, andiamo a dare il primo premio ufficiale. Non si può non consegnarglielo. Devo dire che abbiamo trascurato un po' la questione del premio, lusingati dall'invio delle cartoline. Ma prima o poi faremo vedere anche chi di voi ha vinto la cartolina più rock. Un premio a parte va sicuramente dato a questo amico genovese di Sestri che timbrando delle cartoline ne ha spedite 13. Lui si timbra Psych Out. Sono veramente 13 Psych cartoline out. Mandate tutte da lui. E la cosa inquietante, tenterò di fargliele vedere, straordinario, è che in ognuna non ci è sfuggito, non ha mai scritto tantissimo, però per esempio scrive saluti dal Brasile e il francobollo è brasiliano. Attenzione, proseguo, perché quindi qua sembra autentico. Qua saluti dalla Spagna e il francobollo è spagnolo. Il ragazzo sembra veramente abbia viaggiato dappertutto. Mail art per tutti, qua un saluto. Sono tantissime. Questa arriva dal gruppo Sinestetico. Perché tra l'altro le cartoline sono meravigliose. Sì, vuole provare a descriverne alcune. Sono tutte straordinarie. 13. Io vorrei, DJ Ariel, fare notare anche il logo su Rock FM. Con la luccia, guarda, la letta. Ancora dalla Finlandia, francobollo finlandese, con nel retro delle immagini veramente spettacolari. Dalla Slovenia questa. Ruggero Maggi, un'opera di Ruggero Maggi nel davanti, dalla Slovenia. Probabilmente quotata. È sempre lui, timbra Psych Out Zin, Silvano probabilmente si chiama l'amico, da Genova Sestri, Mail Art Project. Questa è una cartolina che vede una sorta di Hitler vestito da un po' da papa e un po' da cuoco, non si capisce. Sì, con un grande berretto che sembra da cuoco. Saluti dal Messico e il francobollo messicano. Guardi, scriva questa che so che è la sua preferita. Vada. Guarda, amico che ci stai ascoltando, amica che ci presti le tue orecchie, io non ho parole per descrivere questa cartolina che ritrae, fotograficamente parlando, tre water closet, tre gabinetti, chiusi. Tre tazze chiuse. Una nera, una bianca e un rosino. E una rosa champagne, io direi champagne. Tra tutte e 13, quella è la sua preferita, la mia preferita invece è questa, sempre dallo stesso Psych Out Zin, I am too stupid for my own generation. Sono troppo stupido per la mia generazione. Qui ci sono anche un sacco di firme. Certo. Super Radio DJ, Abbasso la birra, Viva la scuola, Viva Doria. Saluti dall'Olanda, francobollo. Olandese, rigorosamente originale. Riciclato. Sono troppo stupido per la mia stessa generazione. Complimenti per l'autoironia, caro amico Psych Out. Anche questa arriva dal Belgio, cartolina dal Belgio. Insomma, è ufficiale. Caro Psych Out Zin, hai sicuramente vinto il premio di consolazione. Sei quello che ce ne ha mandate di più. 13 in una volta sola. Se la cartolina resisterà anche la prossima estate, è grazie a te. È per merito tuo che le cartoline potranno continuare a circolare, ad essere veicolo di caldo saluto. Abbasso l'SMS, abbasso il computer, viva la cartolina postale. Firmato Rock FM. I'm